si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Di Alessio Maurizi. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati, buon sabato a tutti, staremo insieme sino alle 10, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, le nostre buone notizie, i vostri interventi, cari ascoltatori, ma cominciamo subito. Intanto vi ricordo i contatti per interagire con noi in tempo reale, l'account di Twitter sul programma, non siamo in Turchia, quindi Twitter non ce l'hanno ancora bloccato, è chiocciola, si può fare 24, il mio chiocciola, Ale Maurizi. And now, the good news! E come ogni mattina iniziamo con una buona notizia a caccia di spunti positivi. Questa volta siamo in Puglia, a Bari. Vi ricordate l'annosa vicenda di Punta Perotti, gli ecomostri abbattuti, poi un nuovo piano, un nuovo regolamento edilizio nel quale sembrava che dovessero rispuntare dalla finestra quello che era stato buttato fuori dalla porta, cioè nuove colate di cemento. Ebbene, in settimana il sindaco Michele Emiliano sembra avere messo il punto fine su questa vicenda. Ebbene, nel parco non si costruirà mai più, nascerà un parco lungomare, nuove volumetrie sono previste ma a grande distanza dal mare, al di là, se ho capito bene, dall'area ferroviaria, oltre l'attuale area ferroviaria. Insomma, la notizia, ma bisognerà vedere, monitorare e capire, è che nella zona dove c'erano gli ecomostri nascerà un parco, un polmone verde per la città, e non si potrà costruire. E poi non dite però che vogliamo fermare lo sviluppo perché non vogliamo costruire nuove case, perché facciamolo in un'altra maniera lo sviluppo. Non è così, in Italia ci sono quasi 1 milione di case nuove invendute, sono dati e sono stime ufficiali. E poi dice che il mercato immobiliare è fermo per colpa dell'IMU, probabilmente non è del tutto vero, ci sarà la legge della domanda e dell'offerta, se di case ce ne sono troppe nuove in vendita vuol dire che forse non ne servono case nuove, allora facciamolo in un'altra maniera lo sviluppo, e l'edilizia semmai recuperiamo quella esistente. Abbiamo cominciato così con una bella ramanzina, tanto per puntualizzare e mettere puntini su lei su questa vicenda di Punta Perotti, che però secondo me è abbastanza, come dire, paradigmatica, emblematica dei tempi che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi anni. Cominciamo però a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Si va dalle notizie su Expo, è saltato l'incontro ieri tra Maroni e Pisapia, ancora i riflessi del vertice europeo con Renzi sui vincoli imposti o non imposti da Bruxelles, il caso di corruzione scoppiato in Lombardia, insomma tante notizie. Cominciamo col Corriere, notizia centrale relativa proprio a Expo. Dobbiamo salvare l'Expo, l'appello del commissario Sala dopo la lite tra Maroni e Pisapia. Ora dobbiamo salvare l'Expo, non posso essere lasciato solo, è l'appello del commissario Giuseppe Sala, che aggiunge: dobbiamo dimostrare di essere una squadra e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. Intanto l'incontro tra il presidente della regione Maroni e il sindaco Pisapia, che doveva servire a garantire la continuità dei cantieri e a nominare i nuovi dirigenti, si è risolto in una rottura, il governatore ha lasciato il vertice. Vedremo tra poco meglio che cosa è successo. L'altro titolo è questo: Renzi critica il piano Cottarelli, la sfida di Squinzi al governo, il capo di Confindustria dice basta burocrazia o lascio l'Italia. Che è successo? Leggiamo sul Corriere: il premier Matteo Renzi a Bruxelles ha criticato la spending review di Carlo Cottarelli, un buon punto di partenza lo ha definito, ma su alcune cose non sono molto convinto. Chiedere un contributo ai pensionati è sbagliato. Fin qua Renzi, dall'altra parte Squinzi, il presidente di Confindustria, che attacca il governo. Se la burocrazia non cambia, accetto l'offerta di trasferire il mio quartier generale in Svizzera. A Renzi non si possono dare voti, ancora a casa per prepararsi a rispondere alle interrogazioni. Poi la notizia che viene dalla Turchia. Erdogan contro Twitter e anche la storia, scrive il Corriere. Oscurato il social network, protesta anche il presidente Gül. Inaccettabile. Dopo una serie di minacce lanciate durante un comizio a Bursa, il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha ordinato di far tacere Twitter. Basta 5T. Silenziati 10 milioni di cittadini che utilizzano il social network. Protesta anche il presidente Gül, che definisce la decisione inaccettabile. È davvero incredibile. Erdogan negli ultimi mesi ha spinto il piede sull'acceleratore di misure, diciamo così, repressive, e questo però non va bene. Immaginiamo un prossimo vertice tra Erdogan e Renzi. Renzi arriva col cellulare e comincia a twittare a manetta, e Erdogan che glielo sequestra, lo manda dietro la lavagna e poi butta il cellulare nel cestino. Cose dell'altro mondo. Questo però potrebbe far riflettere anche chi sostiene che Twitter è una perdita di tempo, che serve a poco, che è una cosa che non serve a nulla. Evidentemente non è del tutto vero. La velocità con cui si riescono a far circolare le informazioni lo rendono un pezzettino, non so quanto importante, ma della democrazia dei nostri giorni. Quindi questa è la vicenda di Twitter chiuso in Turchia. L'altro titolo del Corriere è relativo al Papa. Mafiosi, lo chiedo in ginocchio, convertitevi o finite all'inferno. Insomma, la notizia l'avete sentita tutti ieri. Papa Francesco alla veglia con i familiari delle vittime, organizzata da Don Ciotti. Sul Sole 24 Ore, a proposito della vicenda Squinzi, precisa così: Squinzi, il vincolo del 3% c'è e rimarrà. Bene il decreto lavoro. Non pensiamo ad alleggerimenti europei, dice Squinzi. Non credo in alleggerimenti europei. Il vincolo del 3% c'è e rimarrà. Le risorse dobbiamo trovarle noi. Il Sole 24 Ore però oggi presenta anche, come tutti, quasi tutti i numeri, ma insomma il sabato l'approfondimento è su questo. Come cambia il lavoro? Contratti, apprendistato, ecco tutte le novità. Tre pagine per spiegare come cambiano i contratti di lavoro. E poi rating 24 al vaglio del Sole 24 Ore. Ci sono i provvedimenti, alcuni di quelli annunciati dal cuneo fiscale ai fondi europei, l'efficacia che potranno avere. In particolare il tema, per esempio, dei cofinanziamenti, sbloccare i cofinanziamenti europei, un'efficacia alta avrebbe questo provvedimento, secondo il Sole 24 Ore, cioè sbloccare questi fondi europei che l'Italia non può investire perché vanno associati a fondi italiani, però il patto di stabilità impedisce ai comuni di spendere, e di fatto noi abbiamo, secondo alcune stime, 9, 10, ma alcuni dicono addirittura più di 20 miliardi di euro europei bloccati che non possiamo spendere. E in una situazione del genere, c'è bisogno di investimenti per rilanciare la crescita, è davvero paradossale. Repubblica titola così: Europa, Confindustria contro Renzi, Squinzi dalla Merkel, giudizi severi. Angela Merkel non ci ha accolto a baci e abbracci, così il presidente di Confindustria sull'incontro tra Matteo Renzi e la cancelliera tedesca. L'altro titolo riguarda invece, come dicevamo, la corruzione in Lombardia, Milano, appalti truccati, la regione sapeva. I vertici della regione lombarda sapevano, e quanto emerge dall'inchiesta che ha portato all'arresto di 8 persone, tra cui Antonio Rognoni, l'ex potentissimo direttore generale di Infrastrutture Lombarde. E poi c'è anche un approfondimento su Verona. A Verona naufraga il sistema Tosi. Leggiamo velocemente che succede a Verona col sistema Tosi. Mazzette, arresti, nepotismi. Il sistema Tosi naufraga negli scandali. Un corvo aveva previsto tutto. Il sindaco, io resto garantista. Che succede? Che c'è Vito Giacinto, avvocato ex berlusconiano poi tosiano, in carcere per concussione, vice sindaco, la moglie del vice sindaco Alessandra Lodi agli arresti domiciliari, anche lei era il collettore delle tangenti, un imprenditore, il costruttore Alessandro Leardini, che versava le tangenti al vice sindaco e ha disvelato il sistema. E poi le voci che giravano in città, perché le analisi delle spese mensili dei coniugi Giacinto Lodi, secondo le indagini della squadra mobile nelle varie banche, hanno rivelato che i conti non tornano. Nell'intero 2009 i due hanno speso in tandem 350 euro al mese. 350 euro al mese, il vice sindaco e la moglie hanno speso, secondo i pagamenti ufficiali, ancora meno nel 2010, hanno speso 126 euro mensili in due. Com'era possibile, almeno stando ai pagamenti ufficiali sul Bancomat? Allora di lì sono poi, non so se di lì o da un altro lato, sono scattate le indagini, hanno scoperto che i soldi li spendevano, ce l'avevano, venivano dalle tangenti, erano soldi che circolavano in nero e quindi loro dai loro conti ufficialmente estraevano 120 euro al mese. Ditemi voi come si fa a vivere con 120 euro al mese una coppia di persone, tra cui lui vice sindaco, e tenevano un livello di vita altissimo secondo insomma tutti i vironesi che conoscevano questa vicenda. Questo è quello che sta accadendo a Verona, questo è uno dei titoli di oggi di Repubblica. Il Giornale ci ricorda un'altra notizia importante: il Veneto vota la secessione. Cioè importante, non lo so, è una notizia importante perché se fosse una cosa seria davvero sarebbe la notizia d'apertura nel mondo intero forse, ma se non è così forse è perché in questi anni di appelli all'indipendenza abbiamo sentiti talmente tanti che poi a un certo punto uno non sa più come reagire. L'ennesima pagliacciata, l'ennesima buffonata? No. Vediamo, troppe tasse nel referendum per l'indipendenza, l'89% sceglie l'addio all'Italia e questo è quanto. Bisogna vedere poi questo addio se avrà degli elementi di concretezza. Vediamo come Corriere riporta la notizia. Allora, per il governatore Luca Zaia, che pure ha votato per l'addio all'Italia, altro non è che un sondaggio. Per il capitano dei venetisti referendari, l'imprenditore ex leghista Gianluca Busato, se supereremo i 2 milioni di votanti non ci sarà bisogno delle elezioni regionali del 2015. Ebbene, secondo i promotori della consultazione, i votanti sarebbero stati 2.360.000, pare al 73% degli abitanti del Veneto, tantissimi. I sì all'indipendenza, manco a dirlo, sono stati l'89%. Però, secondo un'inchiesta dell'Espresso, i dati sarebbero taroccati. Per votare bastava confezionarsi un nome d'arte, inserire una mail e farsi il codice per votare. Quindi uno poteva votare anche 3 o 4 volte. Quindi questi 2.360.000, chi ci dice se sono davvero tutti voti diversi l'uno dall'altro? Chi lo sa? Lo sapremo mai? E poi comunque che valore aveva questa consultazione? Un sondaggio, ci tranquillizza il presidente del Veneto Luca Zaia. Poi c'è la vicenda Moretti, lui che all'annuncio del taglio possibile degli stipendi dei manager pubblici dice: se mi tagliano lo stipendio me ne vado, e 90% degli italiani avranno pensato: vai, ma vai sereno Moretti, vai in un altro paese a guadagnare 850.000 euro, dice, guadagno meno di quello della Germania. E qua l'ilarità si è diffusa proprio grandissima, perché fare il paragone con i treni tedeschi è la cosa più comica che potesse fare. Pure Moretti, che è un manager stimato, è una brava persona, evidentemente anche uno bravo ogni tanto può dire una cavolata e può scivolare sulla buccia di banana. Ci torniamo dopo, adesso ci fermiamo per il traffico, poi la rassegna stampa europea, giornale radio, fra 25 minuti circa torniamo, 800 24 00 24, apriremo anche il numero verde, ma dopo, a più tardi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati, buon sabato a tutti, 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi, potete cominciare a prenotare le vostre telefonate per commentare quello che sentite, daremo un'occhiata ancora alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie, e potete raccontarci anche che cosa ha reso bella la vostra settimana, le vostre buone notizie personali, nascite, matrimoni, avete trovato lavoro, oppure anche cose che riguardano il vostro quartiere. quartiere c'è un nuovo parco, ci sono delle nuove piste ciclabili, si fanno progressi dalle vostre parti. E questa sabato mettiamo in palio, per i racconti più belli a giudizio insindacabile nostro della redazione Si può fare, i biglietti per la mostra Aesthesis all'origine delle sensazioni a Villa Panza a Varese, Robert Irwin e Jane Starrell in mostra appunto a Villa Panza, una mostra tra l'altro organizzata dal FAI proprio oggi e domani, poi ne parleremo delle giornate del FAI, 750 luoghi italiani dell'arte da scoprire, questo per quanto riguarda il FAI, le giornate di primavera. Ma riprendiamo a dare un'occhiata, anzi prima vi ricordo anche i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi, siamo anche su Facebook naturalmente, si può fare _ Radio 24. Riprendiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Ci eravamo lasciati sulla questione di Moretti, che ha detto me ne vado se passa come annunciato dal governo il taglio degli stipendi dei manager pubblici, ma è tutto da vedere se questa cosa succederà, perché ci avevano già provato altri governi in precedenza, ogni volta che ci si prova c'è qualche resistenza. Devo dire che quando Moretti ha detto me ne vado, a giudicare dalle reazioni che ho visto attorno a me, il 90% circa degli italiani avranno pensato vai pure, vai tranquillo, vai sereno, come ha detto il Kodakons, il biglietto te lo paghiamo noi per andare. Moretti sicuramente è un bravo manager, c'è un'intervista oggi sul Corriere in cui lui ricorda che il precedente amministratore delegato delle Ferrovie aveva lasciato un buco di svariati milioni e lui invece ha risanato l'azienda, questo sì, e quello di prima guadagnava il doppio di lui. Poi vedi che c'è l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Maurizio Prato, che guadagna 600.000 euro, e allora dici, forse il problema, ha ragione Moretti, non è lui che guadagna 850.000 euro e amministra comunque un'azienda importante, ma il signor Prato, che non lo so a cosa serve l'Istituto Poligrafico della Zecca, visto che oggi non battiamo più moneta, ma la stampiamo e basta, che guadagna 600.000 euro, oppure l'Istituto Luce, Rodrigo Cipriani Foresio guadagna 158.000 euro, il numero uno dell'Istituto Luce, quello dei filmati dell'Istituto Luce che si vedevano al cinema eccetera. E certo, se mi volete far dire che c'è di peggio di Moretti, sicuramente c'è di peggio che Moretti, però ripeto, l'ilarità è corsa abbondante sulle facce, sui sorrisi di tutti noi quando Moretti ha fatto il paragone con le ferrovie della Germania. Non bisogna proprio toccarle, perché è proprio una cosa assurda, insomma, volete mettere la precisione dei treni tedeschi. Il mio personale sondaggio è questo: l'ultima volta che ho preso un treno ho avuto all'andata una carrozza chiusa inagibile, ho dovuto trasferirmi in un'altra parte, meno male che non erano pieni i posti, se no stavo in piedi 4 ore fino a Pescara, e al ritorno un ritardo di 40 minuti, così, sondaggio mio personale questo su Trenitalia, per dirla a Moretti. Dopodiché vedremo poi se ci sarà questa riduzione dello stipendio dei manager pubblici, ma non c'è ancora riuscito nessuno. Poi scommettiamo che lo troviamo uno di 35 anni bravo che viene a amministrare le ferrovie dello Stato per un terzo di quello che prende Moretti. Secondo me lo troviamo, scommetto che lo troviamo, soprattutto se lo selezioniamo con il curriculum, con il merito, e non tramite la cooptazione politica dei manager pubblici, perché quelli cooptati, diciamo così, oltre ad avere la faccia tosta, poi spesso chiedono anche più soldi degli altri. Chiudiamola qua. Il Corriere si occupa anche della vicenda Expo. Dobbiamo salvare l'Expo, l'appello del commissario Sala, lite tra Maroni e Pisapia. Vediamo un po' cosa è successo. È successo questo: tra il sindaco Giuliano Pisapia e il governatore Roberto Maroni, che entro lunedì sceglierà i nuovi vertici di Infrastrutture Lombarde e annuncia una commissione d'inchiesta, volano gli stracci. A farne le spese il commissario unico della Società per l'Esposizione Universale Giuseppe Sala, che si ritrova solo davanti a taccuini e telecamere. C'è stato questo vertice, Maroni se n'è andato prima del tempo, Pisapia è uscito dalla porta di servizio, si è trovato solo Sala a parlare. Dovevamo prendere delle decisioni, tra cui recuperare anche la famosa via d'acqua che è stata soppressa, insomma i contenuti del progetto Expo. Sala è rimasto lì da solo, e ha detto, ha ricordato che Infrastrutture Lombarde, l'azienda finita nel mirino perché il suo ex numero uno è stato arrestato per corruzione, ha detto Sala, Infrastrutture Lombarde ha supportato Expo nella costruzione delle gare, ma ha anche aggiunto che la fase delle gare è conclusa e che nessuna gara Infrastrutture Lombarde ha mai fatto parte della giuria che ha deciso l'assegnazione dei lavori. Insomma, Sala ha cercato di tranquillizzare, però insomma, l'inchiesta che ha portato agli arresti Antonio Rognoni, ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, rischia, scrive il Corriere, di avere pesanti ripercussioni politiche e la tensione tra i palazzi istituzionali si taglia con il coltello. Dunque Expo, che già era in ritardo, come ci aveva candidamente confermato il ministro dell'agricoltura l'altra settimana, proprio a Noi Gli Si Può Fare, adesso rischia davvero di brutto dopo questa lite tra Maroni e Pisapia e dopo soprattutto l'inchiesta che si è abbattuta sulla regione. Il Fatto Quotidiano titola sulla intervista di ieri sera di Grillo a Enrico Mentana, la prima intervista di Grillo in televisione dopo molto tempo, a Bersaglio Mobile, Enrico Mentana, e naturalmente c'è anche notizia. Grillo: ho le prove, Bersani al massacro per far posto a Letta. Così ha detto ieri sera Beppe Grillo a Mentana. Gargamella, cioè Bersani, non voleva governare con noi, chiedeva dei senatori, sapendo che avremmo detto di no. Siamo tornati all'inizio, un anno fa, quando stava per nascere, doveva nascere il governo Bersani, che poi è naufragato, e Bersani fece le famose consultazioni col Movimento 5 Stelle. Dice Grillo: era già pronto il nipote, l'uomo dell'Europa, leggi Enrico Letta. Un mese prima che andasse al governo Letta, l'ambasciatore inglese invitò a pranzo me e Casaleggio e disse: di là c'è Enrico Letta, che vuole parlarvi. Ce ne andammo subito. Cioè Grillo ha detto che un mese prima che nascesse il governo Letta, mentre Bersani stava facendo le consultazioni, che secondo Grillo sono state fatte solo per mandare allo sbaraglio Bersani, perché era già deciso che non si sarebbe fatto il governo, quel governo lì, l'ambasciatore inglese propose un incontro con Enrico Letta, che era già in pole position per fare il governo. Andiamo però a leggere la replica di Enrico Letta, raggiunto dalla Stampa, smentisce le ricostruzioni di Beppe Grillo e dice: sono solo farneticazioni. Ero lì, ricordo, dice Enrico Letta, ero lì quel giorno all'ambasciata inglese perché stavamo organizzando un convegno tra l'Italia e la Gran Bretagna, il Forum di Pontignano. Esiste anche questa cosa qua in Italia, che Letta ora presiede dopo essere subentrata a Giuliano Amato. Ero lì all'ambasciata inglese, mi proposero di parlare con Grillo e Casaleggio, ma io dissi: no, non è il caso di farlo, non alla luce del sole, facciamolo a livello ufficiale. E quindi Letta smentisce. L'altra notizia che viene dall'intervista di Grillo a Mentana in vista delle europee è questa: penale da 250.000 euro agli eletti traditori. Cioè ogni eletto del Movimento 5 Stelle, ogni candidato, firmerà una cosa per cui, se non rispetta gli impegni del programma della base del Movimento 5 Stelle, deve pagare una penale privata di 250.000 euro. La Stampa ha anche un'intervista al candidato del Partito Socialista Europeo alla Commissione Europea, presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, che dice: sono d'accordo con Renzi, bisogna essere più flessibili. Leggiamo, signor Schulz, ma davvero Matteo Renzi ha impressionato la terribile cancelliera Merkel e i vertici dell'Unione Europea? Sì, dice Schulz, Renzi fa impressione perché è fermo e chiaro, lotta per il suo paese, come hanno già fatto prima Monti e Letta. Il rilancio dell'economia in Europa dipende anche dal rilancio dell'Italia e viceversa. Che ne pensa della linea Renzi sul deficit? Tornare al 3% dal 2,6%, cioè alleggerire un po' i parametri. Dice Schulz: il primo parametro per verificare l'efficacia di una politica è se produce crescita e soprattutto lavoro per i giovani, e quindi sono d'accordo al 100% con Matteo. La Commissione ha già fatto eccezioni per Germania e Francia. Se non si arriva a realizzare un obiettivo ma si è sulla strada, non è più ragionevole essere flessibili? Non si tratta di cifre ma della qualità della strategia. C'è campagna elettorale per le europee, insomma il candidato socialista Martin Schulz, presidente PSE dell'Europarlamento, conferma dice bisogna essere più flessibili, ha ragione Renzi, però di uno sforamento oltre il 3% non si è parlato, sia chiaro, quindi si rimane sempre nell'ambito delle regole previste. Chiudiamo con la casa di Matteo Renzi, che ormai sarà come la casa di Fini, andremo avanti con questa cosa qua. Libero, le bischerate di Renzi, non solo affitto gratis, la vicenda dell'attico pagato conferma la tendenza del premier a raccontar balle, scrive Libero. Lo scoop di Libero sull'attico di Via degli Alfani 8 a Firenze, dove il premier Renzi ha risieduto per 34 mesi, ma Renzi ha smentito, a spese dell'amico finanziatore Marco Cerrai, ieri 21 marzo, dopo 9 giorni di quasi silenzio assoluto, ha trovato finalmente spazio su tutti i principali giornali, cioè Libero rivendica di aver tirato fuori una notizia che gli altri poi sono dovuti accodare. Ma è boom di favole, dice Libero, perché Renzi ha sì smentito, ma Libero a sua volta smentisce la smentita, mettiamola così, perché Renzi ha detto io non abitavo lì, ci abitava Cerrai, io ci andavo una volta ogni tanto, ospite suo, ma non era casa mia, era casa sua. Libero intervista anche il proprietario di questa casa, che a dire la verità non conferma né smentisce nulla. Dice il signor Alessandro Dini, 41 anni, imprenditore, per 3 anni padrone di casa Cerrai, dove Renzi ha trascorso qualche nottata, dice ma Cerrai davvero viveva in quella casa? Non lo so, i vicini di casa non l'hanno mai visto. Che significa? È più facile rimanere colpiti dal sindaco di Firenze che non da Cerrai, ma in quella palazzina si conoscono tutti. Forse Cerrai aveva orari particolari, ma viveva o non viveva in Via degli Alfani? Guardi, ci sono argomenti delicati, io che vuole che le dica. Poi, scusi, ma se insisto, risposta finale, per me c'era, cioè Cerrai ci abitava, a prescindere da quello che dicono i vicini. Quindi il padrone di casa smentisce Libero, almeno per quel che riguarda questa intervista, ma naturalmente il padrone di casa che ne sa poi chi ci stava, chi non ci stava, lui riscuoteva l'affitto, era a posto. Va bene, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, per commentare quello che avete sentito, per rispondere, per raccontare che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Vi ricordo ancora una volta, si vincono i biglietti per la mostra Aesthesis a Villa Panza di Varese, dunque chiamate, ci sentiamo tra poco, pausa. Si può fare cronache da un paese migliore. La verità, oggi iniziare così, è la giornata mondiale dell'acqua, quindi la giornata nella quale si ricorda l'acqua come bene primario, come bene comune, secondo alcuni anche come bene pubblico. È importante parlarne in Italia oggi, perché a più di 2 anni dal voto del famoso referendum, quello che era stato definito contro la privatizzazione, insomma, del sistema idrico, con qualche semplificazione, non era proprio così, ma insomma questo fu quello che passò, manca ancora un quadro di leggi nuove, leggi che regolino il sistema di gestione dell'acqua, un fatto importante, arriva nelle case di ognuno di noi, sappiamo che ci sono perdite, ci sono problemi per esempio con l'acqua inquinata in alcune città italiane, è un tema insomma importante. Una buona notizia arriva dalla Regione Lazio, dove, pensate il miracolo, all'unanimità il Consiglio regionale, mettendo d'accordo tutti, ha votato una legge importante. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente della Regione Lazio, Fabio Refrigeri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto complimenti, una legge di principi, e quindi è stato forse più semplice da questo punto di vista raggiungere l'unanimità, ma una legge che stabilisce dei principi importanti, adesso lei ce li racconterà, sull'acqua come bene, davvero come bene comune, ma entrando anche in un inizio di regolamentazione per distinguere tra gestione, che cosa è invece l'acqua come risorsa, e soprattutto una legge che nasce con un percorso di partecipazione. Perché? Ce lo racconti. Beh, di partecipazione in realtà ancora più, diciamo, più spinta, perché è una norma di iniziativa popolare, cioè lo Statuto della Regione Lazio consente ai cittadini che possono proporre leggi, il Consiglio si deve pronunciare entro un anno dalla presentazione. Quindi questa era stata ammessa, questa proposta di iniziativa popolare, che era stata fatta con numerose firme di cittadini, credo quasi 40.000, ma anche con l'adesione di 40 comuni che avevano deliberato con i propri consigli comunali e fatto proprio questa delibera. Tra l'altro anche l'ANCI aveva assunto una posizione di appoggio a questo testo. Noi quindi ci siamo, quindi il merito diciamo sostanzialmente anche dei, soprattutto dei proponenti, però credo che il Consiglio regionale abbia avuto anche una capacità importante, quella di prendere tutto ciò che c'era di buono e far comprendere anche con un'interlocuzione che a volte è stata anche un po' nuova da un certo punto di vista, perché non siamo di solito la discussione avviene in un consiglio regionale, quindi qui invece c'era la legge che è arrivata fuori, quindi incontri prima, abbiamo allestito anche noi un pool giuridico presieduto dal dottor Toschei, con il professor Lucarelli, cioè un gruppo importante che ha cercato di capire quali erano i principi fondamentali che potevamo salvare, rafforzare dentro le competenze di una regione, perché questo era proprio il nodo. Noi viviamo in un momento complesso dal punto di vista della normativa per la regolamentazione del sistema idrico integrato, abbiamo normativa europea, sentenze di Corte Costituzionale, quello che resta di una normativa nazionale dopo il referendum e alcuni principi. Quindi abbiamo cercato di far capire a chi ha proposto la legge che dovevamo stare dentro un alveo importante. Credo che con grande responsabilità tutti hanno recitato la loro parte e si è ottenuto, a mio avviso, una norma veramente importante, che sia di principi, ma di principi scritti chiaramente e anche di principi in qualche maniera, come dire, un po'... una legge... Esatto, una legge da tenere d'occhio, perché se c'è questo grado di unanimità, se diciamo non ci saranno impugnazioni alla Corte Costituzionale, perché altre regioni hanno provato con altre leggi ma ci sono stati intoppi, se davvero questo lavoro che avete fatto funzionerà, potrà essere messo a frutto anche in altre regioni per regolamentare questa questione dell'acqua, che è molto importante, insomma è inutile dirlo, l'acqua definita anche l'oro blu, le perdite d'acqua nel servizio idrico che non possono essere più tollerate, acque inquinate altrove, acque contese tra diverse zone altre volte ancora. Tra tutti i principi che avete stabilito, andando per priorità, cosa metterebbe al numero uno? Forse la questione della non le aziende che possono gestire i servizi non devono avere utili, devono puntare al pareggio di bilancio, cioè voi non dite pubblico o privato, dite lo può fare chiunque purché reinvesta gli utili in investimenti. E questo è un punto fondamentale. Questo è uno dei punti fondamentali, mi permette di aggiungere, perché c'è anche la definizione all'articolo 4, è un servizio di interesse generale, cioè che non nega che sia un servizio di interesse economico, ma introduce anche un elemento un po' più alto, cioè alza un po' l'asticella rispetto alla valutazione di quello che stiamo trattando, cioè parliamo di acqua e quindi servizio di interesse generale. Poi c'è opportunamente quello che lei ha citato, ma ci sono anche elementi importanti ribaditi che erano già nelle norme, perché in Italia comunque l'acqua è pubblica, le proprietà delle adduzioni, delle captazioni, delle infrastrutture sono pubbliche, questo va detto, insomma lei ha ricordato all'inizio, se spesso passano messaggi che non sono in Italia, l'acqua è stata sempre pubblica anche con la legge Galli, certo. Però sono state ribadite, innestate a questi ulteriori principi di appunto di servizio di interesse generale, a quello che lei ha detto che quindi si può, chiunque la può fare, ma reinvestendo nel ciclo idrico integrato. E un altro momento rilevante è l'articolo 5, gli ambiti non più frutto di elaborazioni amministrative, come di fatto lo sono stati soprattutto nel Lazio, ma riferiti al bacino idrogeologico. Questa è la vera novità, cioè se il ciclo delle acque integrato deve essere considerato in questa maniera, è chiaro che il bacino idrogeologico assume un rilievo straordinario, quello è l'ambito sostanzialmente che, su cui cominciare a ragionare. Quindi da qui a 180 giorni noi avremo un'altra sfida in Consiglio regionale da fare, sempre secondo me con una grande concertazione esterna, che è quella proprio di dettare quello che è la legge, quello che deve fare proprio la regione nello specifico, ambiti e modelli di gestione. Quindi un primo passo importante, una legge votata all'unanimità, lo ripeto, una legge di principi che è passata al vaglio di costituzionalisti, comitati di quartiere, chi ha proposto anche questa cosa, si ribadisce l'acqua come bene comune, come bene pubblico, si comincia a entrare anche nel merito. E poi c'è un'altra cosa che a me ha colpito, cioè voi prevedete anche la possibilità di stabilire un fondo economico per gli enti locali che vogliano, diciamo, rientrare, ripubblicizzare, rientrare nella gestione del servizio idrico, qualora invece in passato l'avessero appaltata a privati all'esterno. Quindi c'è anche questa possibilità, c'è un canale per ripubblicizzare anche proprio in senso stretto l'acqua, qualora gli enti locali lo richiedano, però. Quindi non è né un obbligo né una possibilità. Sì, esatto, una delle costanti di questa norma è proprio aprire alcune libertà, cioè fissare i principi e garantire libertà di scelta, soprattutto anche agli enti locali, che spesso sono coloro che sono i primi attuatori e fruitori del servizio, ma anche coloro che ne rispondono spesso ai cittadini. E quindi questo è una possibilità, è anche un modo che abbiamo avuto di ascoltare molte amministrazioni comunali che ci chiedevano questo. Ovviamente poi bisognerà attendere all'unitarietà del servizio, della tariffa, cioè della qualità, perché i dati che abbiamo ad oggi, dopo vent'anni di applicazione della Galli nel Lazio, non ci possono lasciare soddisfatti. Un servizio disomogeneo, con alcune province insomma in grave difficoltà, sia dal punto di vista della qualità del servizio che anche dei costi di gestione e della compatibilità delle gestioni con un assetto sano. E quindi credo che quell'esperienza però sia comunque preziosa per partire, per ricominciare in tempi molto rapidi e trovare in una fase che sia più corta possibile anche nuovi elementi e modalità di gestione. E perché quindi impedire a chi vuole centrare l'asticella, cioè questo livello di qualità e unitarietà, di farlo anche attraverso una partecipazione comunale diretta e importante. Senta, a me ha colpito anche un'altra cosa, la questione per esempio dell'arsenico. Voi dite, ragionando per bacini e allargando un po' il punto di vista, la questione dell'arsenico presente in percentuali troppo alte in alcune zone, per esempio proprio del Lazio, potrebbe essere risolta molto semplicemente mescolando, io lo dico brutalmente, l'acqua anche di altri bacini, in modo che mescolandola il tasso di arsenico si abbasserebbe senza dover comprare dearsenificatori, non so come si dicano, come si pronunci, costosi e che risolvono solo in parte il problema. Cioè si potrebbe anche risparmiare molto con questo sistema. Beh, lei ha centrato tra l'altro con una proprietà di termini che le garantisco non ha sbagliato. Perfetto, dearsenificatore. Mi sono allenato stanotte. I dearsenificatori non solo hanno costi elevatissimi, noi abbiamo applicato ciò che abbiamo trovato, vista l'urgenza bisognava fare dei lavori, quindi abbiamo dato seguito a piani tra l'altro eseguiti in modalità commissariali che abbiamo già trovato pronti, però non solo sono costosi nell'installazione, sono costosi nella manutenzione e nel funzionamento, qui abbiamo cose che durano limitatamente poco nel tempo e sono costose, e già da subito noi abbiamo intrapreso, stiamo tentando di, già abbiamo spinto un po' in avanti la progettazione e l'analisi per capire come abbattere la quantità di arsenico attraverso appunto la miscelazione con acque che non lo contengono, in quella maniera si ottiene di rientrare nei limiti fissati dalla Comunità Europea. E quindi già stavamo valutando per esempio elementi di potabilizzazione di alcuni laghi del Viterbese e perché no le connessioni con altre adduzioni che non hanno assolutamente questo problema. E quindi quello che ha detto lei è assolutamente coerente e si apre anche una prospettiva in questa maniera più, come dire, praticabile dal punto di vista normativo. Cioè oggi abbiamo anche lo strumento per far questo senza troppe complicazioni. Grazie all'assessore Fabio Refrigeri, assessore ambiente della Regione Lazio. Buona giornata. Nella giornata mondiale dell'acqua abbiamo voluto parlare di questa legge approvata in Consiglio regionale Lazio qualche giorno fa. L'acqua pubblica è legge, ma avete sentito con quali accortezze, con quali distinguo. È un tema difficile, però un punto andava messo dopo i famosi referendum del 2011. In Italia non se n'era praticamente più parlato, se non in casi sporadici in alcune città, Torino, forse Milano, Roma, pochissime eccezioni. 800 24 00 24, vi ha convinto l'assessore Refrigeri, vi ha convinto la legge regionale del Lazio per l'acqua pubblica? Aspettiamo i vostri interventi tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno a Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti. Ciao Carlo. Ciao Alessio. Ben ritrovato. Grazie, come stai? Bene, adesso dobbiamo fronteggiare un po' di ascoltatori che per esempio ci dicono che non abbiamo parlato del referendum in Veneto, quello dei 2 milioni e più che hanno votato. Io ho detto una buffonata. Quello del Veneto che si vuole staccare? Sì, però non ho detto una buffonata, l'ho posto come domanda, punto interrogativo. Buffonata? Sto a quello che dice Zaia, che ha detto è un sondaggio. Poi se è una cosa seria, più di un sondaggio o un po' meno, questo ognuno lo giudica, insomma. Certo, beh, no, una buffonata no, come sempre questo, il fatto che quello che è in rete può sempre sembrare che che sia falso, che sia pilotato, che sia qualcun altro, ma questo, se mai in realtà, su questi oltre 2 milioni di votanti qualche dubbio c'è, perché se... Gazebo ha fatto la trasmissione, sì, in cui mostrava che si può fare, beh, ma chiunque può, ma ci mancherebbe altro, è giusto, solo che sui grandi numeri, insomma, voglio dire, se sono 2 milioni che vanno lì e fanno dei finti account, è un conto. Poi, però, insomma, mi sembra comunque un dato interessante il risultato. Se ho parlato ieri mattina Alessandro Milan, sicuramente ne abbiamo parlato anche noi oggi, ma non si può parlare sempre degli stessi argomenti, dobbiamo assolutamente cambiare. Poi per io parlo di Twitter, ecco, adesso parlo di Twitter, di sicuro. E è uscito intanto il video su contro l'omofobia fatto dai Lions Bergamo, lo dico perché ho partecipato a questo spot di un minuto contro l'omofobia e ringrazio tutti, le cose cambiano, che avevano chiamato qua ai tempi quando feci il video Marmellata e Nutella, quindi mi sembra doveroso ringraziarli. Ci siamo noi all'origine. Esattamente. Quindi internet, Turchia blocca Twitter dopo le minacce di Erdogan. Che cosa è successo? In Turchia Erdogan, che è stato attaccato anche su Twitter, ma ovviamente non solo su Twitter, per lo scandalo sulla corruzione che si sta svolgendo nel paese, e lui dà la colpa semplicemente a Twitter, visto che è Twitter che divulga informazioni su questo scandalo, perché sono uscite delle intercettazioni, e lui all'urlo di sradicheremo Twitter, non mi interessa quello che potrà dire la comunità internazionale, ha deciso semplicemente di chiudere Twitter dalla mattina alla sera. Ovviamente è un fatto senza precedenti nel paese, le reazioni sono state le più svariate, diciamo, all'interno del paese. Il leader dell'opposizione ha chiesto le sue dimissioni, addirittura il presidente del suo stesso partito non è d'accordo con questa decisione, perché è chiaramente per coprire i suoi problemi personali, e soprattutto perché il 30 marzo ci saranno elezioni in Turchia. E quindi, diciamo, la rete ovviamente anche in Italia si è ribellata scrivendo tweet, ci stiamo tutti chiedendo, io ieri mi chiedevo, non so che cosa possiamo fare, forse possiamo boicottare i kebabari, pensavo all'inizio, però poi mi è venuta fame, quindi ho deciso che boicotterò i cessi alla turca, che tanto è più facile, esatto. Ma io adoro il kebab, quindi una domanda gabardiniana potrebbe essere, ma come fai a bloccare Twitter, cioè proprio tecnicamente, no? Te lo sei chiesto? Bloccheranno i server, hanno bloccato, sì, beh, in realtà ha risposto la Siria, che ha proprio bloccato 84 server e ha bloccato proprio tutta internet in Siria. Twitter in realtà addirittura Erdogan sta dicendo, noi adesso bloccheremo anche YouTube e Facebook. Tutto. Credo che presto bloccheranno anche i bar, credo, perché poi il passaggio dopo è che si può chiudere la bocca con del filo di ferro, per esempio. Però mi sembrano dei sistemi così poco spiritosi. E a proposito di poco spiritosi e di internet, il giornalista Roman Romanenko, russo, dopo quello che sta succedendo in Crimea, che quindi, diciamo, la giustificazione ufficiale è che in Crimea sono la maggior parte degli abitanti sono russofoni e stanno male e sono vessati dal governo di Kiev, e quindi sono stati giustamente occupati, annessi, tutto quello che è accaduto. Questo giornalista russo sul proprio profilo Facebook scrive una sarcastica lettera in cui chiede a Putin di far entrare le truppe nella regione di Vologda, cioè in Russia. Dice, qua siamo tutti russofoni, tutti molto oppressi, non abbiamo medicine per i malati, le scuole chiudono, l'agricoltura è praticamente distrutta, occupate noi invece che occupare la Crimea. Questo post su Facebook ha avuto un enorme successo, con un sacco di mi piace, di condivisione. Addirittura in altre regioni russe altre persone si sono messe a scrivere lettere a Putin dicendo, occupate anche noi, occupate anche noi. C'è il paradosso che vogliono essere occupati. Sì, un po', perché vedono che con la giustificazione, esattamente. Mi sembra interessante. Ovviamente, che cosa è successo? Non si sa dove sia finito il vero spirito russo dell'ironia, non so, per esempio di Chekhov, però diciamo che è molto chiaro che per diventare un oligarca o comunque per comandare in Russia devi completamente perdere il senso dell'ironia, visto quello che succede ai gay anche in Russia, che vengono ammazzati e sbeffeggiati per strada. E quindi ovviamente il governatore della regione ha chiamato questo giornalista, l'ha convocato dalla magistratura, diciamo, perché ha intenzione di accusarlo di estremismo e istigazione di odio etnico e sociale. Ad ogni buon conto hanno anche fatto una bella svastica di fianco a casa sua, di modo che tutti capiscono che chiaro, secondo lui, secondo loro, è un fascista. Purtroppo avrei delle altre notizie, ma siamo in chiusura tempo, e quindi non è un problema. Proviamo a sentire un ascoltatore prima di chiudere, così giusto per dare la parola. Massimo da Varese, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo intervenire inerente al discorso dell'acqua, dell'utopia, sì, dell'acqua pubblica, no? Sono un sindaco di Nonate Cepino, in provincia di Varese. Io ho in gestione l'acqua, logicamente il gestore va controllato, ma lei si immagini anche il know-how che il comune può avere per il livello dei pozzi, uso il pozzo 2 con 3 litri al secondo, uso il pozzo 5 con 3 litri al secondo, cioè c'è un discorso anche tecnico, che l'utopia è facile da fare, poi alla gente l'acqua in casa deve arrivare. Certo, Massimo, lei ha ragione, tra l'altro la legge del Lazio parla di bene pubblico, ma non dice che deve essere il pubblico a gestire, anche il privato, ma con dei criteri. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un attimo, dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ole por esos momentos que solo tú y yo sabemos, ole si me acuerdo de ti, en algún lugar te echo de menos. Ole por ser mi inspiración, ole que ole por darme la voz, ole por esos versos que te escribo y que hablan de lo que siento, ole por darme guerra, porque el tiempo contigo ha valido la pena. E questi, caro Carlo, Arabe de Palo, ole! Ole! Te gusta? Mucho! Era la canzone Il Si Può Fare di Valentina Corvino, Il Si Può Fare in Musica, ma è una canzone d'amore. Noi chiediamo agli ascoltatori di segnalarcela anche adesso, anche subito, adesso, per esempio su Facebook Si Può Fare trattino Radio 24, oppure anche sull'account Twitter @ Si Può Fare 24, buttate lì le vostre canzoni, il vostro Si Può Fare. Stiamo costruendo la colonna sonora del programma, una canzone d'amore, ole quando mi fai ridere, ole per la tua voglia di vivere, eccetera eccetera. Beh, ma devi dirlo più a Leger, però. Sì, ma questo siparietto spagnolo è una traduzione, cosa vuoi che ti dica? Ah, giusto, è la parte tecnica, diciamo, parte dici tecnica. Solo il testo. Non solo intanto ole, io ti amo moltissimo, io ti amo, esatto. Ole. I traduttori, ecco, fanno i traduttori, così, cioè, qualunque cosa diventa grigia. Infatti non siamo cantanti. Esatto. Allora, andiamo con gli ascoltatori e andiamo con Lores che ci chiama da Treviso. Buongiorno. No, vi chiamo. Buongiorno. Buongiorno. Vi chiamo da Piene, provincia di Vicenza. Ah, mi avevano scritto, scusa, Treviso, mi scusi Lores. No, ieri sera ero a Treviso. Ah, ecco. Ed è così tanto che è in attesa? Cioè, ci ha chiamato ieri sera ed è rimasta in attesa? No, va bene, Lores, non importa, non importa. Prego, cosa voleva per dire? La festa del plebiscito. Ah. E quindi? E quindi? Allora, lo so, voi prima non ne accennavate proprio niente perché non vi interessava dei veneti. Adesso, in che senso? Per mettere in discussione e mettere in tarlo dell'imbroglio, ne state parlando tutti. Comunque, 2 milioni, un popolo composto da 2 milioni di esseri umani, potendosene degli italiani, dell'Italia, che non se ne frega niente, abbiamo votato. Va bene, Lores, grazie. Quindi, no, ma sì, non ho capito, quindi sta dicendo, è voi contenta. Siete 2 milioni, sta dicendo che lei è molto contenta, che siete in 2 milioni, che tutti quelli che hanno votato sono effettivamente 2 milioni di veneti sicuri, uno per uno, che hanno votato per staccarsi dall'Italia. Aspetta un attimo, scusa, sai, ma adesso stanno controllando i risultati. No, ma io non contesto il risultato, le stavo chiedendo che cosa ne pensava. Non capisco perché è prevenuta. Abbiamo capito cosa ne pensava, mi sembra, no? Ma volevo sapere come state festeggiando. Siete contenti? Dove andate? Che cosa fate? State, fate il Veneto libero? Lores, state festeggiando? Allora, stamattina sono al lavoro come al solito, come tutti i veneti. E ci mancherebbe altro. Quindi non c'è spazio anche per le feste. Ma ieri sera ho festeggiato. Giusto, ma ci mancherebbe. Scusi, una domanda è questa. Adesso, perché quello che non capiscono gli italiani non veneti è questo. Cosa succede adesso in Veneto? Cioè, cambia qualcosa o non cambia assolutamente nulla? E questo è il punto. No. Adesso l'Italia dovrà prendere atto. Va bene, grazie Lores. Grazie Lores, buona giornata. No, è perché se l'Italia deve prendere, l'Italia non prende atto e quindi era interessante. Risposto che non cambia nulla. Ma nel senso che l'Italia di che cosa prende atto? Non è che io posso fare un simpatico sondaggio su internet dicendo che devo staccarmi da mia mamma, votano in 7 milioni, però non è che questa cosa qua ha nessun valore legale, ovvio, no? Quindi non è un fatto di prendere atto, però è un fatto di capire quali sono i sentimenti, nel senso che ero curioso di capire la festa che hanno fatto. Lavora. Paolo da Milano, buongiorno. Non c'è festa. Paolo, sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire a proposito del discorso che ha fatto l'assessore al Lazio, adesso non mi ricordo come si chiama. L'assessore Fabio Refrigeri all'ambiente, sì. Benissimo, perché secondo me è un ragionamento che non sta in piedi. Queste aziende che distribuiscono acqua devono garantire al cittadino la miglior qualità possibile. Che senso ha mescolare l'acqua di due bacini per abbassare la quota di arsenico? È come se io dicessi, scusa, nel mio bicchiere, guarda, c'è un po' di merda, scusate il termine, investo un po' nel tuo, così la beviamo tutti e due e non fa male a nessuno. Sì, detta così, se si diluisce molto. C'è un problema di quantità di arsenico presente nell'acqua, l'arsenico va tolto. Però la diluizione è una soluzione. La diluizione è una soluzione per toglierlo, no? Nel senso che se uno fa pipì dentro in una piscina è, diciamo, meno grave che se uno fa pipì dentro nel suo bicchiere, in questo senso. Ma l'acqua migliore è quella senza pipì. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però Paolo, lei ha ragione, ha colto, sì, Paolo, lei ha ragione, ha colto un aspetto sicuramente contraddittorio e anche paradossale. Però siccome lei sa meglio di me che tutti gli indicatori di inquinamento, tutte le misurazioni sull'acqua, il cloro piuttosto che altre cose, sono fatti a percentuale, cioè sono ammesse certe percentuali di acqua, di elementi, di minerali, di materiali inquinanti o meno inquinanti, anche i minerali per esempio nell'acqua sono ammessi in certe percentuali, quindi è una questione di proporzioni, per cui di concentrazione. Anche se può sembrare assurdo, diluire l'acqua con arsenico con acqua con meno arsenico risolve il problema. Capisco che suona male, no, ma non è che suona male, perché se l'arsenico è sotto una certa soglia, se è 0,00001, non è dannoso per il corpo umano. No, suona male agli ascoltatori che dicono ma questa cosa che sarebbe meglio che non ci fosse. Certo, sarebbe meglio, però siccome in altri comuni è ammesso l'arsenico sotto quelle soglie, mescolando così si risolve il problema. Giorgio da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io chiamavo perché sulla questione dell'acqua, sì. Mi sembra che quella iniziativa che mi sembra di aver capito, quell'iniziativa che hanno fatto lì a Roma, nella regione Lazio, che mi sembra molto fumoso, nel senso che mi sarei aspettato di più iniziative che vanno, come dire, a risparmiare l'acqua, più che fare, come dire, teorie sul bene pubblico, bene privato che non si discute. Ma guardi, Giorgio, non è questione, mi scusi un attimo, non è questione di teorie, è questione che da quando c'è stato il referendum che ha abrogato per legge alcune leggi precedenti c'è un vuoto normativo, quindi bisogna stabilire delle regole per come gestire il servizio idrico. Il Lazio ci ha provato con una legge di principi, però che stabilisce alcune regole all'unanimità, tra l'altro, che è un record per la politica, e questa ci sembrava una buona notizia nella giornata mondiale dell'acqua. Non so se l'ho convinto oppure no. No. Va bene, Giorgio, grazie, buona giornata. 800 24 00 24, siamo partiti così oggi, un po' col freno a mano tirato. Tra un attimo torniamo dopo il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Una rivoluzione è quella realizzata da Mario Bortoletto, imprenditore edile, autore del libro La rivolta del correntista, un libro nel quale racconta come lui, finito nelle mani delle banche, come si dice con una espressione popolare, è riuscito a uscirne fuori. Ho fatto 8 cause a altrettante banche, ne ho vinte 2, ma ho buone probabilità di spuntarla su tutte le altre, dice così nell'incipit del suo libro. Lo salutiamo, buongiorno Mario Bortoletto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Una storia, basta leggere alcuni passaggi del libro, davvero incredibile, probabilmente la storia nella quale si possono riscontrare molte altre persone che hanno avuto problemi, per usare un eufemismo, con le banche, imprenditori in particolare. Lei dice all'inizio proprio del libro: un giorno ti svegli e non hai più niente, tutto quello che avevi ottenuto con i sacrifici di una vita diventa proprietà della banca. Difficile da dire, Bortoletto, da dove cominciare per raccontare la sua storia. Lei da dove vuol cominciare? Ma io voglio cominciare con la storia. Io sono un imprenditore edile che lavora da 40 anni, come tutti i veneti, beh, insomma, tutti gli imprenditori, dedichiamo la nostra vita alla nostra impresa. E un giorno di circa 3 anni fa avevo un direttore di banca che mi chiamava sempre più consistentemente in ufficio per ottenere il pagamento di un rientro di una cifra anche piccola, 22.500 euro. Ecco, lei che aveva un'azienda che faceva lavorare 20, 30, 40 persone, quindi movimentava, credo, cifre anche molto più ampie. Certo, no, il problema era che ero il momento in cui l'ho detto per... sì. Sì, fatto bene, sì. Ma dico, stavo costruendo diverse case ed ero quasi alla fine e dovevo incassare. Ma questo signore, questo direttore, mi rompeva le scatole continuamente. A un certo momento mi sono un po' arrabbiato e ho cominciato a guardare i miei conti correnti con più attenzione. E ho visto che avevo pagato in 20 anni una cifra enorme di interessi. Ma siccome sono un po' testardo, ho cominciato a studiare diritto bancario, leggere libri internet, ho letto 2000 sentenze sul contenzioso bancario e ho visto che i conti non tornavano. Bene, a questo punto ho deciso di far fare una perizia econometrica, che altro non è la storia del mio conto corrente, che ho fatto fare a un dottore commercialista specializzato in diritto bancario. Bene, dopo un mese e mezzo, il professionista mi ha dato la perizia. Da questa perizia risultava che io non avevo nessun debito nei confronti della banca, ma ero creditore. Ce lo dice poi il nome in privato, anche in pubblico, di questo perito, perché chissà quanti vorrebbero avere... No, ma soprattutto quanto costa fare una perizia econometrica di un proprio conto? Diciamo che noi abbiamo una convenzione e con 1200 euro se l'è cavata. Sono conti enormi, insomma, ecco. Perfetto. Bene. No, era per capire l'entità. Sì. Insomma, lei si è accorto che aveva dato alla banca molto più di quanto in realtà la banca chiedeva a lei, quindi... Bene. E allora, se mi consente, chiamo io stavolta, sì, il direttore. L'ho chiamato in ufficio e dico, guardi che vengo a pagare. Ah, bene. Allora mi sono recato nell'ufficio e gli ho chiesto quanti soldi gli dovevo dare e questo mi dice, 22.500. Dico, ma dopo 20 anni mi farà uno sconticino? Sì, le faccio 100 euro di sconto. Ma dico, dopo 20 anni 100 euro? Ma se è una banca non fa sconti. Certo. Li faccio io quando vendo le case, potrà farlo anche la banca. Insomma, sta di fatto che questo non doveva farmi sconto. Ho tirato fuori la perizia e gliel'ho fatta vedere. Vede, direttore, io non ho debiti con voi, ho solo crediti, quindi sono pronto a pagarvi i vostri 22.500 quando voi mi date i miei 67.500. Al che questo ha cominciato ad andare in escandescenze e dicendomi che passava tutto all'ufficio legale. Dice, guardi signore, lei è un dipendente di questa banca, ma vedrà che i suoi capi, il direttore generale, il presidente, che rispondono, siccome questo è l'usura, è un reato penale, l'articolo 644. Cioè, alla fine, mi scusi, avevate fatto i conti sui tassi di interesse che erano stati applicati, era venuto fuori, esatto, un tasso superiore a quello dell'usura. Quindi, bravissimo, mi avevano applicato talmente interessi, tanti altri. Cioè, tra interessi, clausole, pagamenti, balzelli, codicilli, eccetera, alla fine era venuto fuori un tasso reale di interesse superiore. Avete fatto il calcolo proprio della percentuale? Sì, pagavo il 28,70%. Porca miseria. Pazzesco. Quindi, comunque il sogno di chiunque, di qualunque correntista, è fare la telefonata che ha fatto lei, cioè di chiamare lei, il direttore di banca, spero anche la mattina molto presto, dicendo, buongiorno direttore, mi scusi, mi sono accorto che mi deve 67.000 euro, quando passo? Mi sembra straordinario. Bravo, ma tutto sommato poi questo praticamente signore, sì, mi ha detto, mi lasci 10 minuti, è tornato, mi ha detto, guardi, le diamo 5.000 euro, no, dico, non mi interessa, poi 10.000 euro, poi di 15.000 euro, a un certo momento ho detto, guardi dottore, non mi interessa niente, ci vediamo in tribunale. Cioè ha cercato di chiuderla così, di transarla in piedi, dicendo le do 10.000 euro e la chiudiamo qui? Sì, esatto, voleva cercare di transare, che certo, non mi interessa, ci vediamo in tribunale, e così ho fatto. E com'è finita? Ho citato la banca in tribunale e dopo 18 mesi il giudice ha ordinato alla banca, attenzione, di pagarmi 67.500 più 10.000 più 9.000, ne ha pagati 90 e la banca non poteva più pretendere i 22.500. Ecco che affare ha fatto quel direttore. Quindi si può fare, lei ci conferma che si può fare i conti con chiarezza, si può fare causa a una banca, si può vincerla. Certamente. Ma anche perché lei ne ha 8 di cause, giusto, con le banche? Sì, poi ne ho fatte 8. La seconda banca l'ho citata, ma prima di andare in tribunale ha voluto chiamarmi e mi ha detto: chiudiamo prima, si metta una mano sul cuore. Perché avevano visto come era andata la ma io voglio andare in banca con lei una volta. Cioè, e che cosa succede? Ma la vedono da lontano, la vistano da lontano e dicono: sta arrivando Bortolotto, chiudi tutto, dici che siamo chiusi. Sì, no, mi chiamo Bortoletto. E chiedo scusa, Bortoletto. Chiedo scusa. Fa niente. No, diciamo che per me mi sono avventurato in queste azioni che faccio per i correntisti, per dare una mano a tutti quanti. Ovviamente non le nego che faccio poco l'imprenditore edile, ma devo rispondere a decine e decine di mail che mi arrivano con richieste, anche le più toccanti, esempio istanze di fallimenti bloccate proprio perché il giudice, a fronte di una perizia econometrica, ha detto: no, non facciamo niente, adesso vediamo come vanno, se riusciamo a recuperare i soldi dalla banca. Quindi queste due parole, perizia econometrica, suonano proprio come parole magiche, miracolose. Lei scrive tra l'altro: i soldi che mi spettano li voglio devolvere alle vedove degli usurati che si sono tolti la vita a causa delle banche. Quindi lei non scherza, cioè l'ha presa sul serio, non solo vuole indietro quello che ha avuto, però vuol dare anche un messaggio più ampio. A me mi si è accapponata la pelle quando ho letto alcuni passaggi, tra cui questo del libro. D'altra parte, lei capisce, ci sono famiglie distrutte proprio per questo, perché la gente, magari anche imprenditori tra virgolette, non sapevano che forse potevano avere un salvagente e hanno deciso di fare queste scelte estreme che io non condivido. Difatti ho delle persone che mi chiamano, che dicono: mi voglio ammazzare, eccetera. Dico: no, guarda, chiudiamo subito la telefonata, perché il mio libro l'ho fatto proprio per aiutare le persone in difficoltà. La rivolta del correntista, chiare lettere, Mario Bortoletto. Se volete acquistare il libro e leggere una storia che è anche scritta bene e appassionante. Senta, visto che siamo in tema, il giorno dopo il referendum, lei è veneto, ci dica lei una parola, perché sennò poi gli ascoltatori dicono che snobbiamo il referendum, anzi ce l'abbiamo coi veneti, ma non ce l'abbiamo. Lei ha votato? No, io c'aveva altre cose più serie. Sono impegnato per cose più importanti, no? Non mi interessa. Beh, ecco, questa mi sembra già una risposta. La cosa che mi sembra bellissima del libro e di tutta l'operazione è che si ha sempre questa sensazione che quando si entra in banca uno entra per chiedere un favore, quando in realtà uno in banca entra perché loro hanno i nostri soldi. E questo qua mi sembra il dato più preciso. Sarà che me lo diceva sempre mio padre, il fatto che abbiamo sempre un po' un rispetto reverenziale, che uno va in banca e dice: mi scusi moltissimo, avrei bisogno di 50 euro, ma sono i miei 50 euro, semplicemente voi li state facendo fruttare molto di più di quello che poi mi date, e va bene, è un accordo. E questo mi sembra il dato più bello del libro, se posso dire. Sono quello stupido dei due, non sono il giornalista. No, dicevo, sì, è giusto, è così, non dobbiamo aver timore. Beh, ma è per quello che io sollecito le persone, invito le persone a farsi la polizza sulla vita, sull'azienda in questo caso, che è la perizia econometrica, perché è bene sapere come si è messi con una banca. Perché, glielo spiego subito anche velocemente, una banca oggi, adesso le banche non fanno più il mestiere di prestare il denaro, sono solo spinte a chiedere rientri da finanziamenti, per ovvi motivi, vediamo che bilanci hanno le banche. Ecco, ma per una legge prevista nel testo unico bancario, la banca in 3 giorni ti può chiedere rientro del denaro che ti ha prestato e ti metti ovviamente in difficoltà. Certo. Se tu vai e ottieni dal giudice un decreto ingiuntivo, se tu sei disarmato, non hai nulla, vai in difficoltà e la banca si può appropriare delle cose più care che tu hai, ti ipoteca la casa, se si ha l'ipoteca, eccetera, eccetera. Ma se hai una perizia econometrica, la storia del tuo conto corrente, e magari salta fuori che tu hai un debito completamente diverso o addirittura sei creditore, ecco che io la chiamo polizza sulla vita, certo, dell'impresa, e puoi difenderti, diversamente sei spiazzato. E senta, ci sono migliaia. Sì. Lei dice anche a un certo punto, e poi ci salutiamo: lo Stato e le istituzioni se ne fregano. Cioè, nel senso, in questo caso la giustizia e soprattutto il perito le ha dato una grossa mano. Lei, evidentemente la banca nel suo caso aveva esagerato, la giustizia le è venuta incontro, però le istituzioni, le associazioni di categoria, non lo so, il sindaco del suo comune, lei si è sentito proprio solo? Sì, sì, sì, no, non hai aiuti, non hai, ti devi arrangiare, perché le associazioni magari qualche volta hanno anche qualche dirigente nel consiglio di amministrazione, sono un po', non tutte, ma insomma ho visto che si va a sbattere dopo addosso un muro di gomma. Bisogna arrangiarsi e bisogna far valere i propri diritti senza paura. Giusto, bravo, giusto. Grazie mille. Il messaggio che vogliamo cogliere, in definitiva, Mario Bortoletto, grazie ancora, l'imprenditore edile, autore del libro La rivolta del correntista. Bello, bellissimo, questa storia mi sembra bellissima. Volevo solamente aggiungere una cosa sulla questione del referendum. Vorrei dire che io non la sto pigliando sotto gamba per niente, nel senso che mi sembra un dato fondamentale invece, nel senso del quale parlare, nel senso che se comunque 2 milioni di persone o meno, non me ne frega niente, se sono un altro numero di persone, decide di votare per staccarsi dall'Italia, certo che mi sembra una cosa di cui parlarne è molto importante. Poi sulle modalità possiamo fare dell'ironia, ma il dato è assolutamente interessante e importante. Vabbè, sentiamo un ascoltatore. Franco da Latina, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Forte e chiaro. Buongiorno. Buongiorno. Senti, volevo fare una considerazione. Prima ho sentito l'assessore della Regione Lazio che parlava. Sì. Solo una considerazione generale. Magari la prossima volta che un politico parla ad una platea di qualche milione di persone, magari parla con un linguaggio un po'... Io non stavo capendo niente, ben venga che c'è stato lei che ha fatto il riassunto, perché mi sfuggiva la sostanza di... Era un po' tecnico l'assessore, era troppo preso appassionato dalla vicenda, vabbè, e che ci vuole fare? No, sì. Comunque, detto questo, volevo... Sì? Siccome io sono a Latina e qualche anno fa scoppiò lo scandalo dell'arsenico nell'acqua, eccetera, eccetera, allora sono andato un po' a documentarmi, in effetti poi adesso... Non vorrei dire qualche castroneria sulle unità di misura, però si parla di parti per milioni. E il limite, ho visto, per le acque potabili dovrebbe essere intorno a 40. Nella zona era 41-42 e venne fuori il marasma delle tutte le iniziative, le contromisure. Però poi mi sono andato a documentare, nelle acque minerali che noi compriamo non è 40, è 70. Allora lo vedi. Ma il solito concetto è quello che è difficile da far capire, che è una questione di concentrazione, di diluizione. Quindi a cose che a grandi livelli sono velenose, tossiche, addirittura mortali, diluite in ampie a parti di altre cose, sono meno velenose. E questo, anche se, ripeto, è un concetto un po' statistico, difficile da capire, ma lei l'ha detto benissimo e quindi adesso abbiamo capito tutti. Grazie, ci grazie. Fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. .000240024, vorremmo anche qualche racconto su che cosa ha reso bella la vostra settimana per regalare i biglietti della mostra Aesthesis a Villa Panza a Varese, una delle mostre del FAI. Però adesso sentiamo che cosa ci hanno da dire Federico, intanto, che chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno, riguardo a quello buongiorno. Che ha detto quel... Buongiorno, riguardo a quello che ha detto quell'imprenditore veneto sulla causa alla banca, così. Sì. Ecco, se vi può consolare, succede anche in Germania. L'ho letto su un giornale tedesco tipo novembre, inizio di novembre dello scorso anno, addirittura uno che fa uno studio che fa questi calcoli fiscali sui crediti delle banche, che ha aiutato l'imprenditore veneto, e comunque diceva che almeno il 10% dei crediti alle imprese delle banche tedesche è frutto di errori di calcolo. errori si fa, per dire, sì. Vanno sempre a vantaggio delle banche. Quindi consoliamoci, non è un problema soltanto italiano, e se uno è un'impresa dovrebbe probabilmente fare quello che ha fatto il Sa cosa cambierà Porto probabilmente, Lotto. Io però non lo so, il livello d'usura, perché in Italia è un po' più alto quello ammesso, per cui prima di arrivare ai livelli come quello di Bortolotto, che non ricordo se era 28%, cioè per arrivare a avere ragione in tribunale devi arrivare al 28% di interessi, che è alla faccia dell'usura. Probabilmente in Germania, in Francia sicuramente il livello è più basso e quindi scatta prima la soglia. Gli errori poi ci stanno sempre, perché ci provano. Beh, insomma, ecco, se provano. Gli errori sono sempre in una direzione, non sono errori. Comunque, Federico, grazie. Noi ci consoliamo anche così, ci proviamo almeno a consolarci anche con poco. Massimo da Pistoia. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Mi sentite? Sì. Sì, ecco, sentite, io vi chiamavo a proposito del plebiscito nel Veneto, lo pseudo referendum. Lei che c'entra, scusi Massimo, lei chiama da Pistoia, che c'entra? Allora, io c'entro perché, allora, io sono bergamasco, trapiantato in Toscana. L'altra mattina ho sentito la trasmissione di Milan dove se ne parlava e mi è venuta la curiosità. Sono andato sulla piattaforma plebiscito.eu e ho messo tutti i dati completamente falsi. Mi sono messo come tale Guido Carli di Verona e ho avuto tranquillamente il codice di voto per votare. Cosa ha votato? Alla fine non ho votato, ho fatto un'altra cosa. Con la stessa mail ho rifatto un'altra procedura per riavere un nuovo codice di voto e me l'hanno ridato. Ma questo non. Hai votato la prima volta o no? No, non ha votato. No. Bisogna capire se con quella stessa mail tu puoi votare una o due volte. Sì, comunque l'ha fatto però, Zoro in diretta televisiva questa operazione, quindi è ovvio che uno possa dare dei dati fallaci, nel senso che su internet non è che può esserci dall'altra parte. Scusa, visto che ce l'abbiamo in diretta, invece Zoro io non l'ho visto ieri sera. Aspetta un attimo, una curiosità di un ascoltatore che dice: bisognava mettere il numero della carta d'identità, è vero? Certo, ho dato una carta d'identità inesistente, falsissima anche quella, tutto completamente falso, e ho avuto per due volte il codice di voto per poter votare, avrei potuto tranquillamente votare. Poi non l'ha fatto, va bene. Non l'ho fatto perché non era quello che mi interessava, perché a me proprio di quello che vogliono fare i veneti, cioè i veneti nel senso che se ne vogliono andare dall'Italia facciano pure, ma insomma, però mi interessava. È comunque una questione che tocca a tutti, non è che uno dice vabbè, se volete andarvene andatevene, nel senso che non funziona così. Tocca a tutti, però a me sembrava una grande baggianata in partenza, anche perché si può votare anche per telefono, e lì mi interessava soltanto avere questa conferma. E quindi io mi chiedo, di questi 2 milioni tanto sbandierati da quella persona che molto seriamente parlava con Mila l'altra mattina, mi chiedo quanti sono quelli che hanno votato 10 volte, 20 volte, sono i residenti? È verissimo questo, però io credo che il dato sia comunque, nel senso che se invece che 2 milioni fossero anche 1 milione, è interessante il dato, è ovvio che questo non ha una validità legale, che quindi uno va a fare il conteggio e dice ma chi siete, quanti hanno votato, volete veramente staccarvi, però è un dato, cioè, comunque da comprendere, nel senso che non lo so è da comprendere, perché se invece di 1 milione fossero 100.000 perché hanno votato 10 volte, allora non avrebbe alcun senso. Ma comunque 100.000 quindi persone che decidono che il Veneto su 3 è milioni interessante e mezzo, è troppo poco. Ma ripeto, non è una questione legale, è una questione di sentimento di un popolo. Vabbè, che vedere se te ci metti a litigare sul Veneto. Ma non sto litigando, non frega niente a nessuno, né a ma me, come né a me frega moltissimo, non è vero, sarebbe, che non me frega niente, ci mancherebbe altro, sarebbe il colmo. Adesso invece saliamo tranquillamente in bicicletta. Devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento. Due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie. Ormai l'avete capito, Frank Energy con Pedala, che praticamente è una canzone che pare che abbia scritto apposta per noi. Sì, l'unico sopravvissuto dal festival, per quanto ci riguarda, no, è l'unica canzone che abbiamo trasmesso più volte al Festival di Sanremo. È la nostra colonna sonora per le due ruote. La rivoluzione della mobilità elettrica è cominciata a Bergamo grazie al progetto New Mob, meno energia, più movimento. Bergamo ha scoperto il retrofit, un modo economico e all'avanguardia, sentite, per trasformare vecchie auto e biciclette in tradizionali in mezzi elettrici di ultima generazione. Basta aggiungere un apposito kit elettrico. Ma non è quello che una volta si chiamava Moschito? Sto sbagliando? Ma qua è proprio la tecnologia che si applica al vecchio rottame, alla bicicletta abbandonata, addirittura anche all'automobile. Beh, vecchio rottame, diciamo che la bicicletta deve funzionare di per sé, sennò si attacca anche un motore, ma se le ruote non girano, giusto, si sono tutte storte. Ne parliamo con Giulia De Tomati, presidente dell'associazione Venti Sostenibili. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo piccolo progetto, ma che promette di crescere, è uno dei tanti in Italia, ma ci ha incuriosito molto perché anche il comune, le istituzioni insieme a voi, associazioni, scommettono su questa cosa. Esattamente su che cosa? Ci racconti? Sì, allora, io faccio parte dell'associazione Venti Sostenibili che ha promosso il progetto, che è stato realizzato col contributo della Fondazione Cariplo. Il progetto mirava proprio a introdurre la mobilità elettrica e sostenibile nel comune di Bergamo e in particolare a far capire ai cittadini, ai dipendenti comunali, alle aziende del territorio quali fossero i vantaggi del retrofit. Il retrofit è la trasformazione di veicoli tradizionali in veicoli elettrici. In questo caso abbiamo lavorato sulle biciclette e quindi sul fatto che una bicicletta tradizionale, normalissima, anche delle biciclette dismesse che erano appunto nel comune, potessero diventare dei mezzi elettrici e potessero essere utilizzate per le missioni dei dipendenti pubblici al posto tranquillamente di un motorino. Quindi di un'auto. Adesso noi, andando in giro per Bergamo, potremmo imbatterci in uno di questi dipendenti pubblici che, anziché andare in macchina oppure sudando, poi torna in ufficio tutto sudato in bicicletta, se ne va tranquillamente con un mezzo non inquinante che consuma poco, credo. Sì, esatto. Elettrico. Potreste imbattervi in uno dei dipendenti o anche nelle guardie ecologiche del Parco dei Colli, perché oltre al comune di Bergamo anche il Parco dei Colli ha fatto richiesta per avere questi kit. È vero che il kit è uno spin-off della, cioè chi ha prodotto questo kit è uno spin-off del Politecnico di Milano, cioè c'è della tecnologia dietro. Sì, c'è della tecnologia. Allora, i kit per le biciclette ce li ha dati un fornitore a chilometro zero, diciamo, del comune di Bergamo. Invece tutti gli studi e i kit per trasformare invece i veicoli, le auto, se ne occupa uno spin-off del Politecnico di Milano che si chiama EcoSRL. Ma quanto costa questo kit? Un po' mi sa che allora, costa. Allora, i prezzi sono molto variabili, vanno dai 400 ai 600 euro circa. Cavolo. E sì, non è economicissimo, però le prestazioni che si possono avere con questo kit sono superiori spesso a quelle che ha una bici elettrica già assemblata. Che poi voi dite, la bici elettrica costa il doppio, il triplo rispetto a 400 sì, cioè, euro. Le trovi anche già dai 600 a 800 euro, però non hanno le stesse prestazioni che ha questo kit. Ma quanto veloce va con questo kit? Allora, la legge consente di andare massimo ai 25 km orari, quindi poi sopra quello non si può andare. Certo, giusto. Per problemi. E poi come funziona? Uno quando torna a casa la mette in carica con la presa? Sì, noi abbiamo fatto proprio dei workshop per mostrare alle persone durante il Festival dell'Ambiente, per mostrare come si può assemblare il kit sulla propria bicicletta. C'è stato molto interesse, sono venute appunto un sacco di persone e hanno provato a montarlo e si può anche passare da una bici all'altra. Quindi... No, ma è questo che, scusami, cioè, togli il cellulare e metti uno, la bici in casa. Io non devo portare tutta la bicicletta su in casa, basta che porto il kit in casa o devo portarmi tutta la bici? No, cioè poi ci sono vari tipi di kit, comunque si può appunto anche solo togliere la batteria o anche perché questo mi sembra interessante, perché uno di solito pensa sempre, sì va bene, c'ho la macchina elettrica, c'ho la cosa elettrica, ma dove l'attacco, la presa? Invece se mi stai dicendo che con il kit della bicicletta in realtà io posso togliere la batteria, la porto su in casa, la metto in carica, poi scendo, questo mi sembra... Giulia, un'altra curiosità è questa, perché si parla anche di automobili, cioè io capisco mettere un motorino su una bici, ma anche sull'automobile si può trasformarla in elettrica, com'è allora, possibile? Allora, sull'automobile appunto c'è questo spin-off del Politecnico che si sta incaricando di studiare, ha realizzato alcuni prototipi per trasformare i veicoli, in particolare veicoli commerciali, da tradizionali in elettrici. Quindi hanno proprio inventato e brevettato una particolare tipo di tecnologia. Cioè, ma ce l'avete? L'avete visto? L'avete applicato a qualche vettura? O è ancora allora, presto? Allora, nel New Mob si parlava soprattutto delle biciclette, il nostro scopo era agire sulle bici. Diciamo perché per quanto riguarda le vetture, comunque abbiamo fatto uno studio sui parco mezzi del comune di Bergamo per capire quali veicoli potrebbero essere trasformati, certo. Ed è più a livello di studio, diciamo. Però appunto, cioè, se poi andate sul nostro sito trovate tutte le informazioni, dettagli, anche vantaggi economici e ambientali della trasformazione. Qual è il sito? Allora, è www.newmob.it. Bene. Ma posso fare una domanda stupida? Perché in realtà, cioè, mi sembrava interessante questa cosa di passare dalle macchine. Perché uno pensa, la macchina va a benzina e io la porto all'elettricità. La bicicletta va a pedali e perché portarla diciamo, a farla diventare elettrica? Nel senso che non consumava niente prima del vostro kit, a parte delle calorie. Poi uno può dire, sì, però io non è che posso obbligare un postino a pedalare per tutta la città. Se vuoi incentivarne l'uso, devi facilitare. Esatto, cioè, l'idea è che comunque la mobilità mobilità ciclabile, quella a zero emissioni, è ancora quella non elettrica, è la migliore, la bici è nuda e cruda. Però ovviamente per utilizzarla come un vero e proprio mezzo di trasporto, soprattutto in un territorio come quello di Bergamo, che comunque è collinare in qualche modo, quindi il vero vantaggio è che diventa una cosa mista, per cui uno può sia pedalare quando è in piano, sia quando proprio non ce la fa, oppure a mezzanotte 40 attacca il motoretto. Esatto, perfetto, grazie Giulia mille Tomati, grazie presidente dell'associazione Eventi Sostenibili. Buon sabato. Grazie altrettanto. Progetto New Mob. Si può fare cronache da un paese migliore. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands. Gabardini che balla, certo, scena del sabato e della domenica mattina. Che di solito poi arriva una notizia sulla marijuana a questo punto. Invece no. Oggi parliamo di chi con le sue proprie mani ha deciso di andare a ripulire un parco, in particolare il parco Nicolas Green di via Giorgio Lapira, credo Pomigliano. Lo chiediamo direttamente a lui, a Michele Tufano, responsabile della brigata Felice Sodano. Buongiorno Michele. Buongiorno. Pronto? Sì, dove siamo esattamente? Io siamo a Pomigliano d'Arco, in una zona sostanzialmente periferica, che è quella delle palazzine dell'ex 219, una zona un po' soprattutto disagiata, diciamo. Sentiamo un po' male, Michele, non so se... Mi sentite meglio? Adesso sì, ecco, molto meglio. Ok, perfetto. Siamo in diretta proprio nel sotto, ci sono un centinaio di persone in questo momento che stanno bonificando, di volontari che stanno bonificando e pulendo l'aria, armati di scooper rastrelli, diciamo. Una bellissima giornata, anche perché, cioè, tutti lavorano e tu stai al telefono in pratica. Infatti sì, noto che mi guardano fortunato. Certo. Un po' perplessi, diciamo. Allora dobbiamo fare rapido, che non vogliamo portare via delle braccia alla pulizia, come si suol dire. Però vogliamo capire bene, entrare nel vivo. 100 persone non sono poche, un appello così di volontariato. Abbiamo lanciato un appello sui social network e non è la prima volta che, diciamo, facciamo esperienze di questo genere, e le risposte delle persone sono eccezionali. Ma cosa vedi intorno a te, Michele? Cosa c'è? Raccontaci. È praticamente una sorta di bosco con un silos di quelli per l'acqua, i depuratori dell'acqua. Sì. E fino a qualche giorno fa sostanzialmente era una discarica a cielo aperto. Considerate che c'erano, ma li stiamo spostando, materassi, vetture, autovetture sostanzialmente smontate. Addirittura tutto. Pezzi di autovettura, cioè proprio cose grosse. Sì, rifiuti particolari, diciamo. E invece potrebbe essere un'area fruibile per i bambini, qui far giocare i bambini. Stiamo cercando sostanzialmente di trasformare un problema in una risorsa. Questo è l'obiettivo che si pone l'associazione. Le risposte delle persone sono eccezionali, vi dicevo, nel senso che ci sono un sacco di persone che non fanno parte dell'associazione, che ci sono andate a dare una mano stamattina. C'è un clima di festa bellissimo. Michele, ti stiamo perdendo di nuovo. Non so cosa avevi fatto prima. Ecco, sì, pronto? Rifallo. Sì. Ok, no, è la adesso, zona. Adesso ci sentiamo meglio. Ma ci sono anche i classici giochi per i bambini, l'altarena, gli scivoli, cioè è una zona c'erano, già in qualche modo. C'erano, ma sono stati completamente coperti dall'incuria degli alberi. Ma come mai questa zona è diventata una discarica? Che è successo? Ma Non lo so, assolutamente l'incubo, penso che nessuno se ne sia mai interessato sostanzialmente finora, e sono anni che non viene fruita, che non viene pulita, ed è una zona periferica della città, sostanzialmente è questo. Però e si trova vicino a delle abitazioni, a delle case, quindi è una zona fruibile. Dovrebbe essere una zona fruibile, ma di fatti non lo è, per un incubo, diciamo, in efficienza amministrativa. Ma adesso tornerà fruibile, giusto? Per quel che possiamo fare assolutamente sì, anche perché sono interventi relativamente semplici, cioè si tratta di tagliare l'erba, di pulire la strada e renderla accessibile, di coprire i tombini, andrebbe messo un impianto di luci, diciamo di pubblica illuminazione, perché ci sono i pali ma non ci sono le baffoniere con le luci, quindi di sera. Ecco, quello diventa più difficile che lo facciate voi, immagino che ci voglia il comune. Sì. Io c'ho, esatto. C'ho un'ultima curiosità, Michele, ed è questa, perché sì. Brigata Felice Sodano? Perché Felice Sodano è brigata perché rievoca diciamo, il senso dell'azione, del pragmatismo, cioè una brigata, una cosa operativa, e Felice Sodano perché è un diciamo è un nostro amico che è scomparso l'anno scorso e in memoria sua diciamo abbiamo deciso di intitolarlo a lui. Sostanzialmente l'obiettivo che ci poniamo è quello di innestare il senso di comunità, perché l'esperienza veramente questo ci ha insegnato, cioè che laddove tu fai capire che un bene comune è comune soltanto se ce ne prendiamo cura, se bravi, siamo come nostro. Giusto, giustissimo. Vai, corri a lavorare perché non vogliamo portarti via così tanto tempo. Soprattutto gli altri. Esatto, spero che stiano ascoltando, perché adesso tu farai finta di andare avanti la telefonata per altre due ore. Invece la telefonata è finita, fra 4 secondi puoi lavorare. Michele Tufano può tornare scopa in mano a ripulire il parco. Grazie. Grazie mille. Buon ciao, sabato, ciao. Buon lavoro e buon sabato. Adesso stanno lì a pulire. Abbiamo scatenato anche sul retrofit gli ascoltatori. Ah sì? Antonio da Roma, buongiorno. Ah, scusami. Buongiorno. Il retrofit in realtà è una cosa vecchissima. Sì? Soprattutto sulle macchine, se fate un giro su YouTube ci sono maggiolini e furgoni hippie Volkswagen degli anni 60 che girano elettricamente dalla Germania alla Polonia, ai paesi dell'est, alla Russia, cioè voglio dire ci sono innovazioni che sono abbastanza banali in realtà, sì. E veramente facili da realizzare, e manca la volontà politica, cioè ad esempio ecco, vedi, noi abbiamo toccato il nervo giusto, allora, perché parlando di questo progetto New Mob di Bergamo abbiamo trovato un posto dove anche le istituzioni politiche ed economiche hanno deciso di provare a incentivare questo retrofit e quindi di provarci, visto che è una tecnologia che è interessante. Beh, siamo in chiusura. Ottimo, io domani vado a Bergamo peraltro, quindi andrò a verificare queste biciclette con retrofit, perché vado a calciare il kick-off dei Lions Bergamo ancora, del football americano. Ancora. Eh sì. Grazie ad Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca, Camilla Tomadini, redazione. Grazie ad Roberto Alessio Maurizi. In regia. Ci sentiamo domani. Buona giornata anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao a tutti. Anche da Carlo Gabardini. Ciao. Ciao. Sì.